Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, una buona giornata a tutti. Allora, lo ricorderete bene, con la conferenza sul clima che si è svolta ad inizio dicembre a Copenaghen, i temi della salvaguardia ambientale, della lotta contro lo spreco e contro l'inquinamento sono diventati temi centrali nel dibattito generale. Noi oggi vogliamo tornare a guardare alle questioni climatiche in termini generali, ma più dal punto di vista dell'investimento di piccolo taglio, quello rivolto a piccoli risparmiatori che credono anche in queste opportunità di crescita del proprio capitale. Ambiente, energie rinnovabili, fotovoltaico, eolico, biomasse, questi sono i termini con i quali probabilmente avremo sempre più a che fare nel futuro, ma quali sono i prodotti di investimento che ci permettono di puntare su questi settori? Apparentemente ce ne sono molti, in realtà sono ancora, come dire, dei mercati di nicchia, e però sta crescendo notevolmente l'interesse intorno a questi segmenti appunto di investimento. Ci sono le società quotate che operano a 360 gradi nel settore, ci sono poi tradizionali fondi di investimento, ci sono anche certificati ed ETF. Oggi abbiamo schierato un super gruppo di ospiti per spiegarci i prodotti, ma anche che prospettive ha ancora di ulteriore crescita, se ce ne sono peraltro di prospettive, questo settore. Allora, buongiorno, stamattina mi sto strozzando, mi va di traverso la saliva. Buongiorno ad Antonio Michelon, Capgemini Italia, è la più grande società multinazionale di consulenza, hanno un apposito osservatorio dedicato proprio al mercato energetico. Dottor Michelon, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno e bentornato a Marcello Kelly, responsabile per l'Italia di ETF, certificati e covered warrant quotati di Società Generale Lyxor, bentornato. Buongiorno. E benvenuto, lo abbiamo in collegamento telefonico a Simone Calamai, amministratore delegato di Fanstore.it. Calamai, buongiorno. Buongiorno. Fanstore è una piattaforma online, chiamiamola così, un canale distributivo online di prodotti finanziari, e ci racconterà che fondi di investimento intermedia questo canale proprio, fondi che puntano appunto nell'ambito di cui parliamo oggi. Ovviamente noi sappiamo che voi siete molto sensibili su questi argomenti e quindi potete come sempre chiamarci all'800240024 per le vostre domande e le vostre curiosità, che ci potete anche rivolgere al 349-238-6666. Un'occhiata invece alla borsa, a quello che accade questa mattina. Allora, ieri giornata di nuovo piuttosto pesante sui mercati, frenata generale su tutti gli indici, in particolar modo per Milano, che ha perso 2,5 punti ieri pomeriggio sul FTSE MIB. Sono giornate molto calde per le numerose trimestrali che sono rassegnate in particolar modo dalle società americane. Abbiamo ancora una volta sotto i riflettori particolarmente il settore bancario. Ieri è stata la volta di Bank of America a presentare una trimestrale assolutamente deludente per gli analisti. Oggi abbiamo in rassegna tanti altri gruppi: American Express, Goldman Sachs, Google, Xerox, e quindi vedremo insomma oggi cosa ci racconteranno queste trimestrali a stelle e strisce. Di fatto, dopo i cali di ieri molto sostenuti, stamattina l'Europa era partita con un forte rimbalzo, forte, quasi di un punto, più 0,7, più 0,8%, già annullato perché nel vecchio continente si sta già scivolando di nuovo in territorio negativo. Parigi perde lo 0,02%, siamo comunque intorno alla parità. Francoforte meno 0,07, Londra meno 0,03, resiste Piazza Affari più 0,10% sul FTSE MIB. Stamattina gli acquisti stanno premiando Tenaris e Ansaldo, insieme a Pirelli in rialzo di 1,5 punti. Geox più 1,21, Unicredit sta ultimando l'aumento di capitale, guadagna lo 0,9%, Enel più 0,8, Fondiaria più 0,8, Campari più 0,7%, mentre le vendite prevalgono sulla Banca Popolare di Milano, che perde 2 punti. Il gruppo ha presentato 2 giorni fa il suo piano industriale, ma a quanto pare i target fissati sono bocciati dagli investitori, il titolo è in discesa da 2 giorni. Fiat meno 1,83, CIR meno 1,47, abbiamo un ribasso di 1,5 punti anche per Buzzi Unicem. Di tutta questa situazione ne sta approfittando il dollaro, che riprende quota sull'euro, 1,40,38 è il rapporto di cambio in questo momento, e questi sono i principali temi della seduta, insieme alla Cina, che stamattina ha comunicato il dato relativo alla crescita del prodotto interno lordo del quarto trimestre dello scorso anno. Siamo ad un più 10,7%, insomma, per fortuna la Cina, che sta continuando a trainare tutti quanti, almeno speriamo che continui a farlo fino a quando qua non saremo fuori dalle secche. Questo vale per l'Europa che per gli Stati Uniti soprattutto. Allora, lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, parliamo di un altro tipo di investimento, parliamo di investire nel verde, sentiamo cosa vuol dire. Dal protocollo di Kyoto al più recente vertice di Copenaghen si susseguono gli eventi che pongono il clima al centro dell'attenzione internazionale, anche degli investitori stessi, tanto che in molti hanno iniziato a domandarsi se nel 2010 il verde possa diventare il grande protagonista di Piazza Affari. Guardando le performance messe a segno dalle società quotate sull'IREX, l'indice creato appositamente nel luglio 2009 per le aziende operanti nel rinnovabile, i segnali sembrerebbero incoraggianti. Si va da rialzi del 5% fino a guadagni superiori al 70% messi a segno da inizio 2010 a oggi. Nemmeno gli emendamenti che vincolano l'energia pulita proposti dal governo e i programmi di riduzione degli incentivi sembrano dunque aver frenato la corsa dei titoli impegnati nel settore verde. Ma l'acquisto di azioni non è il solo strumento per investire nell'eolico piuttosto che nel fotovoltaico. È possibile, per esempio, puntare su fondi di investimento che hanno preso di mira imprese operanti nel settore, ma anche acquistare ETF o certificati creati ad hoc. Si tratta di prodotti che replicano, ad esempio, l'andamento di indici internazionali composti dalle più importanti società che investono e ottengono in prevalenza i propri ricavi dal settore delle energie rinnovabili. 800 24 00 24, vi ricordo ancora il numero verde che potete utilizzare per prenotare i vostri interventi, per intervenire questa mattina sul tema che abbiamo scelto, appunto, di approfondire come investire nel verde in termini generali, non tanto magari curando un po' di più il giardino di casa nostra, quanto invece puntando anche sul futuro delle generazioni, perché chiaramente consegnando alle generazioni future, come dire, un clima un po' più sereno, questo è il grande tema, come sapete, del momento, sicuramente ce ne avvantaggiamo tutti anche noi oggi. Però insomma, dal punto di vista anche dell'investimento economico, dove possiamo guardare, che tipo di strumenti di investimento abbiamo e soprattutto anche questa forte crescita dei titoli del settore quotati a Piazza Affari da inizio anno, per qualcuno più 70%, insomma sono crescite ragionevoli, cosa c'è dietro a tutto questo? Allora io comincio da chi osserva proprio il fenomeno in termini generali. Antonio Michelon, Capgemini Italia, le chiedo subito, non è che stiamo andando incontro, visto l'entusiasmo che sta contagiando anche molti grandi investitori intorno a questo settore, non è che andiamo incontro ad una nuova bolla come quella che è scoppiata nella tecnologia alla fine degli anni 90? Io spero di no. Le prospettive di crescita del settore sono sicuramente molto interessanti e sono guidate sostanzialmente dagli obiettivi dell'Europa. Il 20-20-20, no? Quindi il 20% di energia rinnovabile sul totale dei consumi al 2020. Oggi siamo distanti da quell'obiettivo e quindi chiaramente per poterlo raggiungere sono necessari ingenti investimenti. Quindi da questo punto di vista non c'è una bolla, direi. Il rischio però, che è un rischio più di carattere monetario che invece sui volumi, sulla capacità del sistema, è legato alla normativa, perché questi sono investimenti che trovano, come dire, la redditività soprattutto nei provvedimenti legislativi e che possono variare o da governo a governo o anche da contingenza economica a contingenza economica. Tanto per fare magari un esempio banale, voglio dire, per chi voleva attrezzarsi sul suo tetto con un pannello fotovoltaico e magari beneficiare dell'incentivo fiscale del 55%, quest'anno termina, chissà che questo per esempio il prossimo anno non provochi un freno ad un investimento certamente, di questo tipo in Italia. Non solo, ma poi anche il conto energia, secondo, diciamo, quello nuovo, sta per scadere, perché dovrebbe raggiungere i propri obiettivi di capacità installata a metà di quest'anno. Ci ricorda che cos'è il conto energia? Sì, sì, è un sistema di incentivazione pensato per il fotovoltaico, no? Che garantisce a chi produce energia con pannelli solari una remunerazione estremamente elevata, diciamo quasi 6 volte rispetto alla remunerazione che uno potrebbe trovare nella borsa dell'energia. Però questo sistema di incentivazione ha come limite una capacità di, credo, 1,2 gigawatt che sta per essere raggiunta a breve. Una volta che questa sarà raggiunta si tratterà di rimodulare questo incentivo e c'è ancora un punto di domanda. Quindi in teoria, insomma, dati gli obiettivi internazionali verso i quali l'Italia dovrebbe tendere, le prospettive di crescita del settore, e poi un settore molto ampio, magari poi cercheremo anche di spiegare quali sono i comparti più interessanti, dovrebbe continuare a crescere. Di fatto la tematica regolamentare, la tematica normativa invece può rappresentare anche un freno a una crescita appunto interessante. Ci ritorneremo su questi punti, andiamo subito ai segmenti di investimento, ai prodotti per poter puntare, però soprattutto quelli che magari hanno avuto il più largo successo negli ultimi tempi. Société Générale, Marcello Kelly, ancora bentornato. Allora, voi nel 2006 avete lanciato 4 certificati, allora li avete considerati pionieristici, ancora sul mercato resistono, per cui evidentemente è stata una scommessa interessante e vincente. Adesso gli strumenti di investimento che producete in casa vostra, che puntano su questo settore, sono 11, 9 certificati e 2 ETF. Intanto quali sono andati meglio? A quali risparmiatori hanno fatto su quali risparmiatori hanno puntato di più? Diciamo che quelli che sono andati meglio sono stati sicuramente gli ETF, perché l'ETF come strumento, ricordiamo, l'ETF è un fondo comune di investimento che replica un indice di riferimento che è quotato in borsa come un'azione, quindi viene negoziato come un'azione. L'ETF in sé ha ha un ritorno di interesse di pubblico molto maggiore rispetto a strumenti più, diciamo, tradizionali come i certificati di investimento, i certificate. Quindi penso che il motivo del successo sia dovuto più alla struttura giuridica dello strumento che non a sottostante. Per quanto riguarda le banche di investimento, noi siamo partiti nel 2006, però le banche di investimento cercano sempre di trovare tematiche, passa il termine, di moda, che possono essere la sicurezza oppure possono essere le attività a favore della terza età, eccetera, al fine di trovare non dei settori, perché non sono settori, ma dei cluster, non li chiamiamo, che possono dare delle prospettive di crescita e vengono inseguite volta per volta. Devo dire, molti di questi dopo 2 o 3 anni esauriscono la loro vitalità. Nel caso delle energie rinnovabili invece dal 2006, siamo al 2010, rimangono attive, e uno dei 2 ETF di cui stiamo parlando hanno comunque raccolto molto dall'inizio anno, c'è un forte ritorno a questo tipo di investimento, quindi mi fa piacere vedere che non sia solo una moda. Le banche di investimento ovviamente permettono di andare a investire con molta semplicità senza doversi porre il problema di in quale società investire, se la società in cui si investe è sufficientemente liquida, capitalizzata, ed eventualmente dando anche dei payoff, cioè dei pagamenti che permettono di tutelare l'investitore. Alcune di queste certifiche che citavamo avevano per esempio la garanzia parziale o totale del capitale, quindi a seconda della propensione o meno a rischio dell'investitore è possibile accedere a queste asset class. Allora, poi spiegheremo anche proprio la natura abbastanza diversa dei vari certificati che avete in casa. Un'ultima cosa, adesso tra l'altro chiedo scusa a Calamai perché non riesco a farlo intervenire in questo primo blocco, ma approfondirò con lui i discorsi invece dei fondi di investimento nella seconda parte di Salvadanaio. I 2 ETF che avete in casa, quali indici replicano, Kelly? Replicano un indice sulle energie rinnovabili, inteso in senso molto lato, e l'altro ETF in realtà è relativo all'acqua, per cui è, diciamo, decisamente diverso, ma sta riscuotendo lo stesso successo, perché a mio avviso in maniera non corretta poi gli investitori tendono ad agglomerare insieme tematiche diverse, che sono molto diverse, sì, molto, insomma, diverse. Sotto la cappa dell'ambiente ci si mette un po' tutto, e però allora magari cercheremo anche stamattina di suggerire qual è il miglior approccio, proprio per non fare confusione, anche se è un tema che richiederebbe praticamente un intero palinsesto. Eccoci ritrovati, allora questa mattina parliamo di energia, ma in termini di investimento, quali sono i prodotti finanziari che possono permetterci di prendere parte alla corsa verso la crescita appunto di questo settore, che è molto ampio, molto diversificato. E però ci aveva un po' incuriosito quello che è successo per esempio a Piazza Affari dall'inizio dell'anno. Ci sono 10 titoli di società appunto che operano nelle energie rinnovabili, alcuni di questi dall'inizio dell'anno sono cresciuti qualcosa come 50-70%, insomma probabilmente una corsa anche determinata dal fatto che sono società che capitalizzano poco, quindi magari anche un contratto provoca delle variazioni percentuali molto ampie. E però questo, insomma, ci ha indotto un po' ad approfondire anche questa tendenza. Quali sono i prodotti di investimento che possiamo intercettare sul mercato per puntare sulle fonti rinnovabili, sulle biomasse, su tutto quello con cui avremo a che fare anche nel futuro? Stamattina ci stanno aiutando Antonio Michelon di Capgemini Italia, Marcello Kelly, Società Generale Lixor, e Simone Calamai, amministratore delegato di Farmstore.it, che ancora non ho sentito. Calamai, eccomi a lei, buongiorno. Buongiorno. Le faccio sentire una domanda di Gianluca dalla provincia di Modena e poi vengo ai fondi di investimento che intermediate attraverso la vostra piattaforma. Gianluca, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Deborah. Io sono molto lieto che Piazza Affari sia cresciuta tanto in questo inizio d'anno. Io ho tre titoli, diciamo, in portafoglio, che però hanno sentito, due di questi tre hanno risentito moltissimo della crisi. Il terzo è un ETF che ho comprato proprio pochissimi mesi fa, e anche con questo sono sotto zero ancora. Sì. Quindi mi fa molto piacere che Piazza Affari sia salita, soprattutto sui titoli dell'energia rinnovabile. Io purtroppo non ho preso questo trend. Non ha preso... No, ma magari Gianluca, tanto per capire, così se lo abbiamo in casa, ha un ETF di Societe Generale, di Lixor? No, E quindi il tema qual è? Non è molto contento? Il tema è che non sono rimasto molto contento perché con i due fondi, fra l'altro due fondi quotati molto bene, fra i migliori, sono rimasto bruciato dalla crisi, ho perso sotto il 30%, e adesso sono ancora sotto del 10 con uno e del 15 con l'altro. Fondi che puntano su questo comparto, energie alternative? Assolutamente, solo su questo. Quindi, e sono fra i migliori. No, quindi... tra l'altro, sì Gianluca, allora la ringrazio per questa sua osservazione, chiaramente dipende anche dal momento in cui avrà acquistato il fondo, non ha preso parte però anche al rialzo generale della borsa che ha investito un po' tutti i settori da marzo dello scorso anno. Detto questo, magari torno solo, Calamai mi scusi, non voglio essere maleducata, ma volevo tornare da Michelon solo per capire come è stato contagiato dalla crisi il settore in termini generali. Sì, il settore è stato contagiato dalla crisi perché, come dire, la crisi economica poi ha generato una diminuzione consistente della disponibilità di cassa che non è stata quindi utilizzata per gli investimenti pianificati. Quindi anche il fatto che le banche non erogassero credito ha riguardato anche le aziende del settore. Anche i fondi investimenti, i private equity diciamo, hanno un po' chiuso la borsa, però ritengo che sia un fatto contingente, quindi non strutturale. Allora, Calamai, eccoci a noi. Fund Store, quanti fondi di questo settore intermedia? Può abbassare la radio che ho sentito il mio eco? Mi sente probabilmente dal telefono, la ringrazio, mi può sentire? Sì, sì. Attualmente intermediamo un totale di circa 2500 fondi, di cui più o meno 25 sono esplicitamente rivolti al mondo delle energie alternative. Concordo con quanto è stato detto poc'anzi dal collega di Société Générale, quando si dice che gli investitori a volte tendono ad aggregare insieme tematiche diverse rispetto a quella specifica, e diciamo nel settore dell'ecologia e dell'energia molto spesso si tendono a sovrapporre temi che in realtà non sono poi così attinenti l'uno con l'altro. Quindi per esempio l'investitore che si rivolge alla vostra piattaforma quando cerca un investimento, come dire, che punta sul tema ambientale e cerca qualcosa di preciso, non ha le idee chiare da quello che lei mi dice? Beh sì e no, ci sono dei fondi che investono specificatamente sulle energie alternative, sono una dozzina più o meno. Ce ne sono altri invece che investono su temi più generali, quali quello dell'energia, delle materie prime e dell'ecologia. Ci sono alcuni investitori che sanno orientarsi in maniera assolutamente indipendente e abile, come dire, per conto proprio, altri invece che magari in situazioni di dubbio semplicemente ci contattano e ci chiedono maggiori informazioni relative all'investimento. Ecco, però fra questi 25 prodotti che credo siano prevalentemente di natura estera, giusto? Esatto, dottor? Ecco, sì. Quali sono quelli che hanno avuto il maggior consenso da parte dei sottoscrittori che si rivolgono al canale online per aderire e sottoscrivere un fondo di investimento? Quindi quali sono appunto i settori che hanno convinto di più? Ammettendo che l'investitore abbia approcciato a questo comparto con un minimo di consapevolezza. Sì, i fondi tra di loro... ci sono quelli ovviamente come sempre meglio gestiti e quelli gestiti in maniera leggermente peggiore, però più o meno hanno una strategia di investimento che è molto simile tra di loro, cioè investono in maniera globale, quindi su tutto il mondo e un po' su tutto quello che è il panorama delle energie alternative, dando per tutta una serie di motivi che sono stati in parte anche accennati da voi preferenza a quello che è l'energia eolica e l'energia solare. Questo è quello che solitamente fanno questi fondi, appunto, che investono in maniera globale sia in termini geografici sia in termini anche proprio di settore di investimento. Ce ne sono altri, veniva citato prima l'esempio dell'ETF sull'acqua, ci sono prodotti simili anche nel mondo dei fondi di investimento delle SICAV che ricalcano assolutamente quel modello lì, quindi ci sono fondi che investono sulla catena di valore generata dallo sfruttamento delle acque piuttosto che da quello delle foreste, che è un tema interessantissimo. particolare. Benissimo, e insomma, per chi volesse un'opportunità di questo tipo, si possono trovare anche i fondi, anche se ancora appunto il panorama vedo che è piuttosto limitato, ma sicuramente anche il mondo finanziario vuole, come dire, fare un approccio cauto, proprio magari per non fare errori del passato e permettere anche ai risparmiatori di buttarsi sulle mode in maniera che poi porta anche a qualche danno. Allora, volevo ritornare sugli ETF, Marcello Kelly, ci torno con la domanda di Giorgio dalla provincia di Verona. Giorgio. Sì, eccomi qua. Buongiorno. Mi sente? La sento benissimo. Sì, guardi, domanda semplicissima. Noi abbiamo seguito la vostra scheda prima dell'interruzione della pubblicità. È fatta molto bene, come al solito. Però chiedevo questo. Possiamo sapere i rendimenti che hanno avuto questi ETF? Che sono partite dal 2006, mi sembra di ricordare. Alcuni certificati di Societe Generale, di Lyxor, sì. Esatto, perfetto. 2007, 2008 e 2009, se si può avere. Sì, d'accordo. Sentiamo allora quelli che hanno, ovviamente ce ne sono probabilmente anche prodotti da altre case di investimento, quindi noi parliamo solamente di quelli di casa di Societe Generale. Allora, i rendimenti sono stati soddisfacenti? Sì, allora io darei una risposta a entrambi gli ascoltatori, anche quello precedente che era deluso delle performance, sì. Cioè in Italia positivo, invece gli ETF che erano di un competitor negativo. Ricordo una cosa, e cioè che gli ETF e altri prodotti di investimento devono per forza investire su società molto capitalizzate, quindi alla fine, facendo una scrematura a livello mondiale, si riescono a trovare più o meno 20 nomi solo, e sono tutti nomi non italiani. Quindi il problema di vedere in Italia le società italiane dell'energia che avanzano a livello di rendimenti e gli ETF e certifiche che non hanno gli stessi rendimenti è semplicemente perché investono su due aree completamente diverse. Una sull'Italia, l'altra invece a livello mondiale. Quindi questo spiega la differenza di rendimenti. Per andare sui rendimenti proprio spiccioli, l'ETF sull'energy da inizio anno è leggermente negativo, meno 3%, a un anno ha un rendimento di più o meno il 13%, a due anni è meno 35% perché risente naturalmente l'anno di crisi. Per quanto riguarda i certificate su energie rinnovabili oppure sull'energia solare specifica o sulle bioenergie, anche lì è lo stesso ragionamento: se si va a toccare l'anno in cui c'è stata la grande crisi, ovviamente, come diceva anche il collega, problemi di cassa, sono a volte società non molto capitalizzate, ma hanno ancora una solidità forte per resistere a una crisi, quindi vengono penalizzate molto dal mercato per poi magari riprendersi molto velocemente. Quindi se andiamo a guardare a 5 anni, noi vediamo sempre rendimenti molto positivi, oltre il 50%. Evidentemente più ci avviciniamo a meno due anni troviamo rendimenti invece negativi. E per quindi, forza dico, insomma, tipicamente chi? Sono società che hanno anche una volatilità molto maggiore rispetto a quella del mercato, e quindi è per questo che poi a un certo punto siamo trovati costretti a offrirle sotto forma di certificate con protezione, perché gli investitori non apprezzavano questa volatilità e volevano avere almeno la garanzia del rimborso del capitale. Benissimo, allora, torniamo poi anche sull'aspetto della protezione. Volevo tornare ad Antonio Michelon per sottoporgli un paio di considerazioni di alcuni ascoltatori. Uno è, come dire, anche pittoresco se vogliamo, ci presenta un paradosso che però ha anche delle ragioni economiche evidenti. Ma quale investimento nel verde, ci dice appunto questo ascoltatore, per vedere un guadagno nel mio ETF Clean Energy, che poi non so di che distributore sia, devo fare il tifo per il petrolio, visto che la performance del primo è direttamente proporzionale al secondo. Che cosa vuol dire, dottor Michelon? Insomma, che investire nel verde significa anche contestualmente fare anche il tifo per il petrolio, che appunto possa continuare a crescere le sue quotazioni? Beh, in qualche modo sì, c'è una domanda corretta, nel senso che l'energia prodotta da fonte rinnovabile ha un costo superiore, però ha un costo superiore fin tanto che il prezzo del petrolio è basso, il prezzo del petrolio trascina i prezzi dei costi di energia tradizionale, diciamo. Quindi se il prezzo del petrolio aumenta, aumenta anche l'opportunità economica di fare energia verde, quindi diciamo esiste questa correlazione, corretto? Esistono ancora aiuti per startup, qui non parliamo esattamente di un investimento finanziario per piccoli tagli, ma invece di qualcuno che vuole evidentemente proprio intraprendere magari un'attività imprenditoriale in questo settore. Un ascoltatore di Cremona chiede se esistono ancora aiuti per startup nel settore rinnovabili, fondi europei o italiani, ne risultano, dottor Michelon? Ma probabilmente ce ne sono, la miglior forma di incentivazione o di aiuto è sicuramente il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili. Se cerca, diciamo, nei programmi della Commissione europea, ci sono sicuramente dei progetti che possono essere finanziati con i fondi della Comunità europea. Siamo ritornati in diretta per l'ultima parte di Salva Danaio. Oggi cerchiamo di indagare tra quei prodotti di investimento che ci permettono di prendere parte ad un fenomeno economico che probabilmente, come dire, continuerà a crescere in maniera molto vistosa nei prossimi anni, il mercato delle energie alternative. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande. Allora sentiamo quella di Paolo da Cuneo, che aspetta da un pochino. Paolo, benvenuto. Buongiorno a lei, Deborah. La mia è una domanda molto semplice, forse volevo entrare un pochettino più nello specifico negli ETF, quali erano le società, e se si possono avere i nomi o i codici di questi ETF che investono su queste energie rinnovabili. Paolo, guardi, adesso con i codici lei capisce che ci renderebbe la vita piuttosto dura. Io oggi ho una società che opera a Piazza Affari e che ha da qualche anno sul mercato alcuni prodotti di investimento appunto proprio dedicati a questo settore. Magari a Marcello Kelly glieli facciamo presentare, però magari quali sono i vostri principali competitor anche Kelly sul mercato italiano, per esempio, tanto per dare un su panorama questo settore, a sicuramente Paolo. iShares, quindi del sono i britannici, BlackRock, sì, i britannici, per cui tanto per avere i due grandi attori del mercato italiano. No, non diamo codici, non... No, ma ci mancherebbe, ma sono lunghissimi i codici. Possiamo dare i nomi dei prodotti, lo possiamo ricordare. Voi avete 11 strumenti, una gamma di 11 strumenti, 9 certificati di investimento e 2 ETF. Anche a dire il nome non so quanto potremmo aiutare l'ascoltatore, come glieli possiamo far trovare magari? Ma motori di ricerca qualsiasi su Google o su etf.it, il nostro sito, si trovano. Ma al di là, diciamo, del nome dello strumento, il nostro si chiama l'XR ETF New Energy. Forse più interessante andare a vedere come sono costruiti, certo, prima di creare false illusioni. Allora, prima di tutto non c'è un gestore attivo che fa una selezione degli strumenti. E questa è la natura dell'ETF. Assolutamente. C'è un index provider che da Dow Jones che crea un indice. Purtroppo la Dow Jones non ha le competenze sul settore delle energie rinnovabili, quindi si affida a un soggetto terzo, si chiama Sustainable Asset Management, che è una società invece che ha specifiche competenze e che stila un elenco di società cosiddette eligible, cioè che hanno le caratteristiche per rientrare nel fondo. Dopodiché la Dow Jones fa una selezione, cioè elimina quelle con più bassa capitalizzazione, quelle che non sono liquide, quindi che non scambiano su borsa. Di quelle che rimangono le divide in tre cluster. Sono effettivamente le energie rinnovabili, propriamente dette, quindi bioenergia idrica, geotermica, eolica, solare e marina, e poi altri due cluster che invece sono relative alle società che si occupano di efficienza dell'energia, cioè conduttori, superconduttori, cioè che cercano di minimizzare la dispersione dell'energia, da quello che capisco io che sono un profano del settore, e poi società che sono invece focalizzate sulla distribuzione dell'energia, cioè sul decentramento della produzione con una serie di tecnologie, dai motori Stirling alle pila carburante, eccetera. Certo. Per cui diciamo si creano tre cluster e si vanno a scegliere società più liquide, più capitalizzate sui tre cluster. Questo perché c'è un problema grossissimo di trovare nomi di società capitalizzate e liquide. Certo, il panorama dei nomi, dottor Michelon, secondo lei crescerà nei prossimi anni? Adesso abbiamo avuto questo arresto clamoroso dell'economia in termini generali negli ultimi due anni, probabilmente ancora un paio d'anni di sofferenza davanti a noi ce l'avremo, ma il settore del quale stiamo parlando questa mattina, secondo lei, non appena le economie industrializzate ripartiranno alla grande, quale segnale primario presenteranno, secondo lei? Quale sarà il primo ambito che partirà magari in maniera un po' più forte, più interessante, più accelerata di altri? Ma sui settori tradizionali, anche se è un po' ironico parlare del settore tradizionale di energie rinnovabili, però diciamo quelli della produzione di energia da fonte rinnovabile, quella della costruzione degli impianti eolici, pannelli solari, eccetera eccetera, forse assisteremo a un consolidamento del mercato. Però le energie rinnovabili poi comportano tutta una serie di sviluppi di carattere industriale e tecnologico a cui quindi possono accedere invece a altri nomi, no? Uno tra questi, per esempio, lo sviluppo delle reti intelligenti. Oggi diciamo che le reti di trasmissione dell'energia elettrica in Italia, ma anche nel mondo, non sono così intelligenti da poter accogliere una grande quantità di energia rinnovabile. Devono essere quindi informatizzate, devono essere sistemate, appunto rese più intelligenti. Tutta la tecnologia che abiliterà questa evoluzione è sicuramente interessante per lo sviluppo dell'industria. Volevo tornare un attimo a Simone Calamai di Fanstor, perché ovviamente con Societe Generale abbiamo fatto un po' il panorama dei prodotti di casa propria, le modalità per poterli intercettare, gli ETF o i certificati, se gli investitori fossero interessati a questi prodotti. Andando invece sulla vostra piattaforma, Calamai, se fossi interessata ad un fondo di investimento, a uno dei 25 che lei ci ha citato prima, appunto, che intermediate, riusciamo a navigare bene nel vostro motore di ricerca? Sì, sì, c'è un motore di ricerca che tra le varie funzionalità che offre c'è anche quella di diciamo della selezione per, in base al settore di investimento, e c'è un settore specifico che è azionario energie alternative. E, diciamo, lì ci sono i fondi, quelli specifici sul tema che stiamo trattando oggi, poi ci sono altri settori che era quelli, sono quelli che dicevo un po' prima, quelli, come dire, in qualche maniera attinenti, quelli sull'ecologia e sull'energia, e poi da lì, come dire, l'investitore autonomo può partire per una propria ricerca andandosi a vedere le schede prodotto dei singoli fondi, da chi, quali sono i titoli che questi fondi vanno a comprare, le tematiche che seguono in maniera specifica. Tutto il prospetto in sostanza che ci dà la fotografia del prodotto di investimento. Quanto costa operare sulla vostra piattaforma, dottor Calamai? È gratuito, nel senso che il costo dell'intermediario è compreso, come sempre succede quando si parla di collocamento di fondi in Italia, nella commissione che il cliente paga al gestore del fondo. Non esistono commissioni né di ingresso né di uscita né di switch, come dire, il costo non esiste nemmeno un costo come dire, di accesso alla piattaforma. Per gli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo, intanto, che vogliono sapere bene qual è il nome del vostro sito, della vostra piattaforma, è Fundstore, nel senso proprio di negozio di fondi, fundstore.it. Ho detto bene? Esatto, perfetto. Allora, una domanda invece per Michelon da parte di Domenico dalla provincia di Caserta. Domenico, buongiorno, perché è l'unico alla quale credo poterla fare. Domenico, buongiorno. Buongiorno. Vorrei sapere se al momento sono previsti ancora incentivi per quanto riguarda l'energia rinnovabile, però per l'installazione a casa, a domicilio, come quelli di un paio d'anni fa in cui lo Stato copriva il 55%. No, sono ancora in vigore quelli, Domenico, terminano a dicembre, quindi bisognerebbe sbrigarsi quest'anno a fare questo investimento. Michelon, allora abbiamo riconfermato quelli del 36 sul 55, questo governo, questo bilancio, questa finanziaria non ce la fa. Sì, e tra l'altro, per quanto riguarda il fotovoltaico, c'è anche da sottolineare che verrà a scadenza probabilmente nel corso di quest'anno il sistema di incentivazioni che è noto col nome di conto energia, perché il conto energia sarà prefisso un obiettivo di volume che sarà presumibilmente raggiunto a metà di quest'anno, e quindi anche le super tariffe garantite dal conto energia verranno riviste. È difficile poi fare una previsione se verranno riviste a ribasso, se verranno mantenute, eccetera eccetera. Qualcuno in qualche modo, soprattutto i produttori di pannelli o comunque le persone che portano un interesse in questo settore, chiedono il mantenimento dei livelli, no? Guarda caso, ma lo chiedono anche perché l'obiettivo è quello di rendere l'energia fotovoltaica economica come l'energia tradizionale, ma per fare questo bisogna naturalmente sviluppare ancora di più l'industria, e per sviluppare ancora di più l'industria bisogna sostenerla con gli incentivi, almeno per ora. C'è un ascoltatore che mi sta scrivendo, no? È un messaggio un po' appiccicato nelle parole, quindi non riesco a capire bene, ma ha un fondo che investe su società di gestione, non capisco bene, insomma riguarda l'ambito acqua, perde il 30%, non si riprende, e lui dice, lo definisce proprio un buco nell'acqua, e giustamente come altro potevamo definirlo, però insomma tenete anche conto di quello che è successo sul mercato negli ultimi due anni, per cui tralasciate anche un po' quello che è stato invece il recupero della borsa da marzo dello scorso anno, non tutto è cresciuto nella stessa maniera, e quindi magari abbiate anche un po' di pazienza. Kelly, puntando su un ETF, ecco, rispondendo all'investitore, tra l'ETF sull'energia e quello sull'acqua, paradossalmente quello sull'acqua è quello che ha perso meno, nel senso che a un anno fa più 30% contro il più 13% dell'energia, e a due anni fa meno, solo tra virgolette, meno 10% rispetto a meno 35%, quindi diciamo che ha azzeccato il cluster di investimento. Però diciamo in termini relativi probabilmente gli è andato male. Chiudo con Michelon sull'acqua. Allora, questo settore lo monitorate? Sì, è un settore però tradizionale, non è che rientra poi nell'ambito specifico del rinnovabile, certo. L'acqua per fortuna ce l'abbiamo da sempre, è un settore che probabilmente sarà soggetto a una trasformazione industriale, quindi da questo punto di vista potrà presentare degli spunti di investimento interessanti. Allora, torneremo a rimettervi insieme prossimamente per vedere insomma se davvero tutto questo capiterà, e soprattutto ancora insomma questi settori che ci sembrano adesso ancora così lontani e per certi versi anche molto di nicchia, magari prossimamente si saranno un po' più ad appannaggio di tutti, di un panorama più generale anche di piccoli risparmiatori. Io vi ringrazio per essere stati con noi. Salvadanaio torna domani. Buona giornata a tutti. Salva Danaio.